Girando attorno al sole, diamo l'effetto fionda, abbronziamo la carlinga di questa astronave, guardando i deflettori, stiamo più sicuri, tenente solo, faccio un po' quel che le pare, ma ci porti via. Curvatura 2, 4, 6, 8, ma prende la radio, grande dura, grande cristalli in pulizia. Garante della sicurezza, Klingon Worf. Oggi non si spara nessuno, se ne vado a giocare a golf. Mi chiami il mio secondo e mi sa che si è perso nella sala ologrammi. Quante fantasie in corso. Curvatura 2, 4, 6, 8, aprite la radio Andiate a cura. Le scatole cantino i motori di questa nave spaziale. Curvatura 2, 4, 6, 8, ma prende la radio date cura dei cristalli di legno. Dottor McCoy, sento le voci, sto per svenire. Non è grave, ma ti faccio una scansione biomolecolare. Comunicato generale. Parla Spock. Capitano affetto da un patogeno spongiforme multiforme.